Cronache Meridiane di Gianluca Nicoletti. Pierino dalla battuta facile, ordigni dai suoni metallici. Missili. Il bimbo si stanca presto di un giocattolo moderno e perfetto. È la verità. Un'esperienza che ogni genitore vive quotidianamente. Assillato, è il caso di dirlo, da sempre nuove richieste, da nuovi desideri che si appagano e si spengono nel volgere di pochi giorni, qualche volta di poche ore. Del resto, per avere una riprova di questa insaziabilità di giocattoli, basterà osservare la quantità e la vastità dei negozi di giocattoli. Una conferma di quanto sia continua ed ampia la richiesta. Dentro pensate come l'umanità in fondo ristagni nelle stesse preoccupazioni. Questo era un monito lanciato in un discorso, una riflessione, non so bene, è un programma televisivo del 1965, in cui si richiamava l'attenzione verso i giocattoli troppo tecnologici. Il robottino con quella voce sintetica, finta, che parla al bambino, dice attenzione quando il giocattolo potrebbe prendere predominio poi del bambino a cui è stato affidato. Oggi Repubblica ha una pagina intera di Giuliano Aluffi sui giocattoli che parlano troppo e il rischio che uccidano la fantasia. Sono gli smart toys, sono i giocattoli che si collegano in rete, sono la Barbie che entra nei social network, sono quelli che parlano, che interagiscono. Ormai il giocattolo è il punto di fusione con la robotica specializzata nel creare oggetti di intrattenimento, magari per anziani con l'Alzheimer o magari proprio per anziani o per persone che stanno sole. Si cerca il succedaneo dell'umanità attraverso la ricostruzione robotica, e questo è il giocattolo. Noi però abbiamo dei ricordi ben diversi dei nostri giocattoli. Abbiamo avuto un dialogo lungo, profondo, fanciullesco e quindi intenso con i nostri primi giocattoli. Poi ce li siamo dimenticati, la nostra evoluzione è l'omicidio rituale dei nostri giocattoli. La Pixar ci ha fatto 3 film, uno più bello dell'altro, la trilogia di Toy Story, sulla nostalgia del giocattolo che vede crescere il proprio consumatore, il proprio destinatario, e rimane recluso in uno scatolone nell'attesa spasmodica che quell'uomo adulto, quella donna adulta ritorni bambino e vada a conquistare l'antico giocattolo. Beh, voi dove avete messo i giocattoli della vostra fanciullezza? Esistono ancora le scatole, gli sgabuzzini, gli scatoloni di vecchi giocattoli? Avete tutti rotti, distrutti, regalati ai bambini poveri, dati alla Caritas, buttati, passati a fratellini, cuginetti? Esiste ancora il ricordo di un vostro giocattolo per voi importante, con cui avete passato giornate, nottate intere, l'avete tenuto abbracciato, stretto in mano, ci avete parlato, ci avete conquistato mondi immaginari che oggi magari non vi ricordate nemmeno di aver percorso? Invece noi oggi facciamo questo giusto e doveroso tributo ai nostri giocattoli, ai giocattoli della nostra fanciullezza. 800 24 00 24, se mi raccontate i vostri, forse vi racconterò i miei. Melog, Cronache Meridiane. Ah, fra i giochi che preferivo da piccolo sicuramente c'era la fionda autocostruita e quelle bellissime biciclette tipo custom con la sella lunga, il manubrio a corona di bue, oppure il famosissimo libro delle giovani marmotte. Uno dei ricordi dei giocattoli alla fine più devastanti erano quei famosi missilini che mi lanciavi in aria, poi a una certa altezza avrebbero dovuto aprire il paracadute e planare a terra. Ti dico, almeno praticamente non mi è mai riuscito, sono più quelli che ho perso, che ho rotto, di quelli che funzionavano. Mi ricordo soprattutto le pistole con gli elastici autocostruite, che dopo la Jig fece un fucile con gli elastici, e poi un altro gioco pericoloso, mio padre mi costruì una fionda con le camere d'aria delle biciclette e legno di salice piangente. 800 24 00 24, oggi compiamo un'operazione medianica. Evochiamo i fantasmi dei nostri antichi giocattoli. Già qualche testimonianza è arrivata. si inizia da giocattoli poveri, giocattoli autocostruiti, che in realtà non sono proprio quelli che si ricevevano a Natale, o perlomeno questo accadeva in una civiltà molto arcaica, in un momento di passaggio, nelle fasi della povertà. La fionda non era il regalo di Natale, la fionda era il regalo autocostruito, o regalo che costruivano i padri più volenterosi. Anche mio padre mi costruì una fionda di salice piangente. Avevamo un laghetto vicino a casa e il ramo biforcuto del salice era perfetto, fino a che non si seccava, la fionda si rompeva a metà e si ricominciava da capo. L'elastico si faceva con la camera d'aria delle biciclette, non funzionava molto, era molto duro. Non esistevano elastici diversi dagli elastici bianchi delle mutande. Molte volte saccheggiavamo la cassetta del cucito di nostra madre e con l'elastico delle mutande, che in fondo non è che funzionasse molto bene, noi andavamo a caccia di lucertole, piccoli animali. Oggi non si può dire, perché se noi dicessimo qualcosa del genere saremmo immediatamente denunciati. 800 24 0024. L'ascoltatore ha citato il missilino con il paracadute. Era ai tempi in cui la guerra fredda si consumava a chi aveva il missile più lungo e sfidava la conquista della Luna. E noi avevamo il missile Thor. Il missile Thor non funzionava. Si lanciava anche quello con una fiondina, con l'elastico. Andava in aria, dove aprizzi il paracadute e scende con il paracadute. Accadeva nell'ordine che il missile Thor andava in aria, tornava giù e si schiantava. Accadeva che si aprisse il paracadute ma rimaneva tutto intrecciato. Perlomeno andava bene il primo lancio, il secondo lancio. Il paracadute, da pochissimi soldi, aveva dei fili talmente sottili che si rompeva subito il paracadute, e quindi il missile Thor, da missile per la conquista della Luna, diventava missile per la distruzione. Si toglieva il paracadute, si riempiva di schifezze e si lanciava per devastare, per distruggere. Lorenzo, buongiorno. Buongiorno, salve. Sì, il mio gioco preferito era la fionda. Passavo pomeriggi interi a spaccare bottiglie, a lanciare sassi. E poi altri giochi erano... Che munizionamento usava per la sua fionda? Cosa tirava? Dei sassi abbastanza tondi, e cercavo di spaccare, insomma passavo questi pomeriggi a spaccare bottiglie. Le fionde se le faceva da sole? Adesso le vendono fatte bellissime, sì, nei negozi di sport, sono delle fionde stupende. No, ma avevamo un salice in giardino, quindi mio padre mi spiegò una biforcazione dei rami, e poi con le camere delle biciclette abbiamo fatto il resto. Ecco, diciamo che la poesia della fionda nelle generazioni di bambini italiani finì più o meno a metà degli anni 70, quando la fionda era quella che si caricava con munizionamento fatto di bulloni, era un'arma di rivolta, un'arma di manifestazione, un'arma di confronto fra avverse parti politiche. La fionda poi serviva per fare il male agli altri e non soltanto per andare a caccia di lucertole. Poi rassicuratevi, nessuno le beccava mai, le lucertole, erano molto furbe, era più altro l'idea di fare un safari nel giardino di casa. Manuel, buongiorno. Buongiorno. Io diciamo che ho 3 figli maschi, quindi ho portato i miei giocattoli, alcuni, 3 categorie in particolare, 3 oggetti in particolare che mi sono conservato scrupolosamente, l'ho difesi dal saccheggio di mia madre, perché le madri generalmente poi distruggono i giocattoli dei bambini o li fanno sparire. No, li regalano agli altri bambini, ai cuginetti. Molti secondo me li buttano per forse stimolare la nostra emancipazione. E che cosa è rimasto dalla distruzione? In ordine di importanza, diciamo, dal terzo verso il primo, che è il più importante, un Big Jim, che era un pupazzo muscoloso, lo sappiamo, Big Jim, mutilato, pieno di ferite, sanguinolente, quindi l'ho massacrato. Ecco, lei con cosa lo massacrava Big Jim? Dunque io scaldavo, le dico cosa facevo io, poi me lo dice lei. Io scaldavo le graffette di ferro sul gas della cucina e con il ferretto arroventato naturalmente lo trafiggevo ovunque, soprattutto nelle parti molli che non aveva. Big Jim aveva il problema che non c'aveva il pisello e questo non lo mandavamo, e quindi lì lo colpivamo. Era più basso di Barbie, quindi questa era una frustrazione terrificante. Le Barbie erano altissime, bellissime, Big Jim era un po' toccio, era tracagnotto, diciamo. Esatto, quindi lo massacravamo tirando le freccette, quelle inglesi, no? Il gioco delle freccette, sì, si infilzava giustamente, esatto, sì. Io lo massacravamo in questa maniera, quindi è pieno di buchi, ma io la faccia poi dipinta di sangue, quindi questo mostro orribile io l'ho conservato, perché ai miei figli ho anche il feticismo di riproporre i miei di giochi, quindi l'ho ricomprato su eBay e a questo punto l'abbiamo rimesso in piedi, questo sanguinoletto mio che ha 2 mani sinistre, perché ovviamente una mano pure si è persa, non so come ho trapiantato un'altra mano sinistra dall'altra parte, e quindi questo è uno, quello che resta, anzi. Poi il secondo è un cofanetto dalla Matchbox con delle macchinette piccoline che si comprano ancora oggi, però io ho le mie. Ah, quelle piccoline, le mini car erano. Le mini car, esatto, Matchbox, e poi c'erano le Corgi Toys, che c'erano solo quelli ricchi perché erano bellissime. Corgi erano... Toys e Dinky Toys, erano due le esatto. marche. Esatto, Dinky Toys facevano anche quei giocattoli spaziali bellissimi degli anni 60 e 70, quindi questo cofanetto è rimasto così com'era, proprio perché è chiuso. È un sacrario. È un sacrario, certo, quando lo apro io li minaccio ovviamente, perché quello più piccolo adesso ha 10 anni chiaramente, ma questa così stilicidio lo hanno patito anche gli altri due più grandi, ovviamente se perdono, se azzardano a perdere una sola di quelle macchinette sanno come va a finire. Ogni tanto in America ho preso una Citroën, quella la Pallas, quella anni 60. Sì, io ce l'avevo teleguidata col filo guidato. Magari. Sì, ce l'avevo seguito, era bella. Quindi ogni tanto ho aggiunto uno o due pezzi, ma insomma proprio è rimasto integrale quello pure. Fermiamoci, se no occupiamo spazio a tutti. Ah, c'è terzo, dica il terzo. L'ultimo, sì. Il terzo, il più importante, il mio orsacchiotto, che è un asinello e ci dorme ancora quello piccolo, che c'ha del 72. Un asinello aveva di peluche? Sì, di peluche, che è diventato così, è pelato, ma per me è vivo, quindi sì. A volte il cane gli si scaglia contro. E posso io avevo un piccolo gorilla, si chiama Bumbi Bumbi, me lo portò mio zio dall'America. Distrutto, perché le mani sono staccate più volte, l'avevano ricucite, lo distrugge, gli facevano delle cose terribili, lo lavavamo, lo sbatte. Ma penso che sia rimasto in qualche recesso di casa mia, ma non ci vado da tanti anni, ormai ho sfamigliato. Il mio vivo lì è veglia sui miei figli ancora. Era di gomma, era molto bello, però c'era un fatto, e lo dico anche agli ascoltatori. Oggi un giocattolo è impossibile distruggerlo, perché ne va metà della tredicesima del padre, una Barbie elettronica che si collega con i social network, i giochettini che si collegano con lo smartphone, i piccoli robot che vengono regalati ai ragazzini, che poi sono gli stessi giocattoli dei grandi più o meno. Allora ci si potrebbe anche permettere di far saltare le ruote di una macchinina o incendiare i Big Jim. Enrico. Ah, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Niente, io ho grande nostalgia, io ho 57 anni, ma ho grande nostalgia per il mio figlio del Meccano, perché era un gioco costruttivo, ci ho giocato tantissimo, e sono sicuro perché non so che fine che ha fatto. In Italia qui non riesco a trovarlo, non so se esiste. Non c'è il Meccano, dunque io spiego per gli ascoltatori, il Meccano era il gioco del piccolo meccanico, erano delle barrette traforate in vari formati, piattaforme, ma poi c'erano pezzi elaborati, c'era il cardano, la vita senza fine, le pulegge, le ruote, uno poteva costruire delle piccole cose. Io ci costruivo il mulino per il presepe che girava con un motorino elettrico, e alla fine ci costruivo anche delle piccole trappole esplosive per una mia vecchia zia, che quando ci inciampava con le due molle un pilone andava a infilarsi dentro una rotella, ci metteva le capocchie dei fiammiferi, faceva un botto e una puzza terribile. Questo era un uso improprio del giocattolo, però a noi divertiva molto più quello. Il Meccano non so se esiste ancora, è stato sostituito da altri giochi. Ci voleva una piccola chiave inglese, si ricorda, un cacciavitino, vitina dopo vitina, dado dopo dado, si costruiva con il Meccano. Orio, buongiorno. Orio. Buongiorno. Ascolti, io avevo un gioco meraviglioso. Spenga la radio, sì, me lo ricordo, era tristissimo. È un gioco meraviglioso che era una pista di plastica, diciamo, che si agganciava a una alla finestra, si metteva sul tavolo, dall'altra parte si agganciava al tavolo stesso, si mettevano sopra dei cavallini di piombo. E con una manovella all'inizio di questa pista si girava la manovella, l'elasticità della plastica, diciamo, faceva andare in avanti, faceva correre i cavallini e tutti, e poi si giocava in 4 o 5. Ma ce l'ho avuto anch'io, guardi, però mi sembra che erano di latta, non erano di piombi miei, di piombo erano? Sì, o di piombo o di zama. Ah, di zama, ecco che era, sì, era terribile, faceva uno scricchiolio terribile, terrificante, sembravano... A me piaceva tanto. erano dei cavalli a ingranaggio, perché uno girava si... No, non erano ingranaggio. Ma i rumore era quello. Non si muovevano, era la pista che faceva quel rumore. Io mi ricordo era... qualcosa di sonoro fastidiosissimo. Beh, guardi che io ho 70 anni fra poco, lo so. Vabbè, forse sono più rincoglionito degli anni 50. Sì, sì, ma io penso l'avrò ereditato, visto da qualche zio, giovane zio, perché non era tanto della mia generazione, era probabilmente i primi anni 50. Noi avevamo già altri tipi di cavallini, ma erano in metallo prestampato, taglientissimi, pericolosissimi. No. Quella è un'altra cosa. Allora lei sta parlando di un gioco simile, ma non proprio esattamente uguale. Esatto, ci fermiamo un istante, devo lasciare la linea alle informazioni del traffico. Tantissimi state raccontando, avete aperto il sacco dei vostri ricordi. Gli antichi giocattoli seppelliti avranno un momento di gloriosa resumazione grazie a voi. Melog, cronache meridiane. Quest'anno furoreggiano i giochi delle guerre stellari. Il mercato offre una vasta gamma di strani personaggi da fantascienza, dai poteri sovrumani, che lanciano pugni a testata nucleare e che volano alla velocità della luce tra una galassia e l'altra. Piacciono ai bambini, dicono, perché il mondo delle guerre stellari è un universo che lascia ampio spazio alla fantasia. Questo mondo, francamente, a noi sembra anche un po' agghiacciante. Anno 1978, un servizio su guerre stellari, oggi con più enfasi probabilmente, ma con meno passione, girano gli stessi giocattoli. E naturalmente c'è chi mi ricorda che questi giocattoli erano fra quelli del loro cesto dei giochi, come appunto Carlo. Carlo, buongiorno. Ciao, buongiorno. Io brevemente, so che il tempo è prezioso per tutti, tanto faccio gli auguri a tutti gli ascoltatori, ma mia madre gelosamente ha conservato due astronavi, erano della Hasbro, e dei personaggini che, in confronto a quelli della Kenner, che vedo che mio figlio ha apprezzato comunque e con cui con grande mia soddisfazione. Stai parlando di Star Wars, i giocattoli che dagli anni 70 fanno parte comunque del corredo classico dei giocattoli dei maschietti, perlomeno, poi sentiremo se anche così andava per le femmine. Assolutamente sì, ho avuto modo di ritrovare un camminatore che poi mi hanno detto che ha anche un valore sul mercato eccezionale, e anche l'X-Fighter, e dei personaggini che mi hanno, tra l'altro R2D2 e C3PO, che mi hanno detto sempre per i collezionisti di grande valore, però ho ritenuto più opportuno che ci giocasse mio figlio. Ma certo, logicamente, cosa fa lì da un collezionista? Riavessi il mio Allegro Chirurgo, me lo terrei per me, naturalmente, non è che lo darei a un collezionista, anche perché lo rifanno. Senta, che altro c'ha nel suo scatolone dei giocattoli? Un altro gioco bellissimo era un camioncino. Quando mi levarono le tonsille, io mi ricordo che a quel tempo probabilmente noi... Sì, erano gli anni che togliano tonsille adenoidi a tutti, sa perché? Esatto. Una specie di rituale familiare, tonsille adenoidi, tutti, però l'hanno fatto. Mio nonno veniva dalla Turchia e mi portò questo camioncino dei pompieri in latta, di cui ovviamente non ci sono più né la scala né la sirena però conserva ancora le sue ruote. I pompieri erano disegnati praticamente ai lati del camioncino. Esattamente, e ci sono ancora tutti i disegni dei vari raccordi, delle tubazioni, eccetera eccetera, degli armadi che contenevano gli attrezzi dei pompieri, tranne ovviamente la scala, che probabilmente in qualche intervento fu persa, mettiamo così, e le sirene che non ci sono più. Però ecco, ricordo molte avventure legate anche a questo gioco. E poi ricordavo i tre Big Jim. Avevo il voltafaccia, che era, tutti avevano il braccio sinistro che muoveva per dar cazzotti. Dava il colpo di karate. Si pigiava dietro la scheda e dava il colpo di karate, che noi naturalmente negli anni più avanti, con la nostra malizia, applicavamo quel braccio ad altre funzioni ritmiche, e questo però non lo possiamo dire. C'è un'analogia nel movimento. D'altro che quello poteva fare con il suo inesistente apparato Big Jim. Vabbè, questo, il voltafaccia poi cambiava l'espressione, era arrabbiato o era allegro. Una ragazza, Bruna, prima di dare la linea. Bruna, buongiorno. Buongiorno. Io ho ancora la mia prima bambola. Che bambola era? Celluloide. Ah, proprio di antica generazione. Proprio marca tartaruga che costava moltissimo. È sempre stata nella mia libreria. Sempre venuta con me. Quindi è stata comprata nel 49. E poi quando ho visto in vendita un l'orso bruno me lo sono ricomprato perché mi era andato perso nei vari traslochi. E ce l'ho lì, sopra anche lui, insieme alla bambola. È un bel ricordo. Lei se le ricorda solo una le bambole spagnole che quelli un po' coatti li mettono sul letto degli sposi. Oh, quelle orrende, sì, con vestiti grandissimi. Le bambole spagnole, non so perché, io mi ricordo, andavo a visitare le famiglie che si sposavano dei contadini ai miei tempi, perché che hanno fatto la stanza degli sposi, c'è sempre una bambola spagnola seduta sul letto. Mi piacerebbe sapere l'origine e l'uso della bambola spagnola sul letto. Cosa c'entra nell'umbra degli anni 50-60 la bambola spagnola sul letto? Fermiamoci un istante, tra un istante. Melog, cronache meridiane. È riesplosa anche la moda dei computer. I giocattoli elettronici imperversano, ma diciamo subito che sono regali costosi e soprattutto assai complicati. Tra i giocattoli più cari troviamo questa scacchiera elettronica. Dare scaccomatto è un'impresa ardua. L'avversario infatti è un mini computer, una specie di gioiello, insomma, per i più esigenti. Più per i papà che per i bambini è questa riedizione della vecchia battaglia navale, che oggi si chiama Triangolo delle Bermude. Le navi vengono colate a picco da congegni. Stefania, buongiorno. Sentiamo qualche altra ragazza. Buongiorno. I suoi giocattoli. Allora, a casa mia c'è una lunga tradizione di giocattoli così un po' contadini, perché è in campagna ed è ancora in campagna e io non sono particolarmente, insomma, tanto in là con gli anni, sono del 76 e mi ricordo che mio nonno spendeva proprio del tempo per costruire i nostri... Ah, ve li costruiva i giocattoli? Esatto, e impiegava proprio una serie di ore per costruirli, parlo di cose fatte con i semi delle querce che volavano in aria se le si soffiava da alcune cose, e la cosa interessante è che tutto sommato queste cose le fa ancora mio padre ai miei nipoti, quindi è una specie di varco temporale che non si è che mai... Però lei ha interrotto la catena, lei cosa sa fare, cosa sa costruire? Niente, ovviamente. Vabbè, che finisce la tradizione di giocattoli costruiti. Muore con me, muore, però mio fratello probabilmente riuscirà a portarla avanti ancora per quindi un anche po'. A voi femmine regalavano fionde e oggetti costruiti sì, da noi? Sì, c'era, diciamo, la fionda era a disposizione di tutti, si faceva prevalentemente per i maschi, mentre per le femmine era una sezione di un tronco di canna, fondamentalmente, attraverso un foro si doveva far volare il seme della quercia, quelle erano le tipiche ripartizioni, però alla fine finiva sempre che ognuno usava, era molto, come dire, molto paritario l'utilizzo dei giochi fra i sessi, per cui c'era anche questo elemento. Sì, in effetti una volta si giocava molto assieme con le bambine di famiglia. O le bambine famiglie amiche. Cesare, buongiorno. Buongiorno, salve, complimenti per la trasmissione. Oggi direbbero che è una strategia gender, ma noi abbiamo sempre giocato con le bambine. Abbiamo massacrato le bambole e loro ci prendono il loro giocattolo. Cesare. Niente, io chiamo perché volevo dare la mia testimonianza per quanto riguarda questo argomento e niente, volevo dire che noi abbiamo comprato, io e mia moglie qualche giorno fa, la Condor, che era quella pistola nera che aveva quelle capsuline di gommina gialla. Ah, quella che è compressa? Esatto, esatto. Si tirava giù la canna e si caricava? Esattamente. È bellissima. Che noi con le mosche cercavamo di prenderci di tutte, naturalmente non ci prendevamo niente. L'abbiamo trovata in un negozio di giocattoli, tra l'altro in straofferta, l'abbiamo presa al 50% di sconto e l'abbiamo comprata. Mio bambino ancora ha 3 anni e mezzo, quindi per ora è presto, però l'abbiamo comprata sperando che domani, insomma, la possa utilizzare. Dico una cosa, noi... che eravamo abbastanza crudeli, sostituivamo il gommino con i pallini da caccia che non erano del calibro giusto, prima ci mettiamo della cera, con la cera gli creiamo un po' di spessore, perché con i piombini da caccia sparava e faceva anche i buchi e quindi era un po' più efficiente. Certamente. Oggi sarebbe da galera uno che fa questa cosa qui, però allora facciamo quello con la Condor. Eh sì. E poi niente, poi essendo io diciamo uno dei primi figli della tecnologia, perché essendo nato negli anni 80, a fine anni 80 arrivarono le prime console della Nintendo, della Sega, io le sto conservando perché oggi le console videogiochi sono tutti super interattivi, connessioni internet, rilevatori di movimento, e quindi niente, io spero che un giorno, non lo pretendo, però spero che un giorno magari mio figlio mi chiederà: babbo, come giocavi te con le console? E io magari tirerò fuori il primo Nintendo o il primo Sega Mega Drive che ma il problema è dove lo attacca per vederlo, però questo ci sono, no, ci sono degli adattatori. Ah, ci sono degli emulatori, sì, va bene. Sì. O se no si va in un negozio di antiquariato e si compra una Mivar, una vecchia televisione a tubo catodico che c'ha l'attacco di quegli anni, nessun problema per il resto. Va bene, Rinaldo. Sì, sono qua. Il suo giocattolo. Allora, brevemente, io conservo gelosamente un pullman di legno che trovai sotto l'albero di Natale, lo ricordo come fosse oggi, no? Tenete presente che sto parlando del 48, io oggi ho 75 anni purtroppo, però questo giocattolo mi è rimasto nel cuore e lo conservo da allora. Pensate, tutto in legno, aveva una batteria quadra sotto il pianale che faceva accendere un lumino rosso nella targa posteriore e due lampadine davanti con gli sportellini in lamierina. Ma le dico, un giocattolo molto molto bello. Diciamo che erano gli anni di passaggio, ancora non erano arrivati i giocattoli tecnologici, la guerra era finita poco tutto sommato, e cominciavano le vie di mezzo, qualcosa che aveva un piede negli antichi giocattoli di legno, però la pila e le lucine che si accendono già era il preludio dei giocattoli più tecnologici. È una cosa fantastica, guardi, non ne ho mai visto un altro. Assolutamente, ritengo che abbia anche un certo valore, anche se questo non mi importa. Beh, però lo tenga, perché per lei è un valore affettivo senz'altro di più. Silvio, grazie. Silvio, buongiorno. Buongiorno Gianluca, auguri a tutti. Io conservo praticamente tutto, cioè di quando ero bambino ho i modellini delle automobiline, il trenino, la pista, l'allegro chirurgico che hai citato prima. Non so se ricordi Silvan, c'era un gioco. Cioè, giochi di Silvan, più di uno ce ne furono, varie scatole, con giochi primo, di prestigio. Ovviamente, ahimè, per questioni anagrafiche, credo sia stato il primo. Sì, c'era una bacchettina magica di plastica, un sì, po' di carte. Molla che saliva. Sì, il coniglietto che usciva fuori di plastica, poi, tutto di plastica. Ancora di epoca precedente, si chiamava il cinevisore, era un televisore con sopra un giradischi. E poi c'era una fessura dove si infilava una striscia di diapositive, per cui scendeva la diapositiva e il disco raccontava la favola. Ah, una cosa molto molto avanti, diciamo, il primo giocattolo multimediale, sì. Sì, io ho 55 anni, cioè era... Io ricordo il Viewmaster che si mette dentro le foto tridimensionali. Lo ricordo anch'io. Ricordo, lui, che era una stupidaggine, però c'erano dei dischi che giravano doppia foto, dalla foto in 3D, pesciolini, cose. Cioè, non so, poi sempre quelle. Ho una pista, pensa che mio padre, che era prima lui. Che Polycar o Scaletrix? No, era una Polycar. Ed era così grande che in una casa dove abitavamo non ho mai potuto montarla perché era più grande della stanza. Infatti si montava soltanto a Natale la pista, perché occupava tutta una stanza. Mia madre categoricamente andava a smontare perché se no non poteva fare la pulizia. Poi c'è il trenino. Rivarossi o Lima? Lima. Lima, che adesso ne ho comprato un altro, perché quello temo che non funzioni più per ossidazione e cosa, ne ho comprato un altro a mio nipote. Beh, però è bello ripulirlo tutto, che si smontavano sì, e si potevano pulire. Ma come va, avere il posto, sì. Vabbè, Silvio, mi fanno segno di lasciarla lì, la starei a ascoltare, anche perché le grandi categorie, grandi famiglie delle piste e dei trenini erano quelle che abbiamo elencato, e da quello era un imprinting che ti segnava tutta la vita. Avevi il trenino Lima o il trenino Rivarossi, avresti preso una strada diversa nella tua esistenza di adulto. Avevi la pista Scaletrix o la pista Polica, altrettanto le tue scelte di studio e di vita sarebbero state diverse. A tra poco. Strade in diretta. Ben trovato. Salvati, continuano i disagi nel Lazio, la statale 6 via Casilina è chiusa per incidente con mezzi pesanti coinvolti a Danagni in entrambe le direzioni con deviazione del traffico in loco. E sul grande raccordo anulare di Roma ancora incolonnamenti per incidente in carreggiata interna tra la via Nomentana e l'allacciamento con la 24. La statale 3 bis Tiberina in Umbria è ancora chiusa per consentire la rimozione di un veicolo incidentato tra San Giustino e Selci in direzione Terni. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove un incidente provoca 4 chilometri di coda tra Incisa e Firenze Sud verso Milano. Rallentamenti per curiosi in direzione opposta. Incidente e code a tratti anche sul raccordo Bettolle-Perugia tra Perugia Centro e Perugia Stadio in direzione della 1. In Lombardia, sulla statale 412 della Valtidone tra Locate Triuzzi e Carpiano, code per lavori e incidente in entrambe le direzioni. Un sinistro in colonna e veicoli anche sulla nuova Vigevanese tra Vigevano e Abbiategrasso in ambo i sensi di marcia. È invece un cantiere a provocare code sulla 8 Milano-Varese tra Solviate Arno e Castronno in direzione Varese. Maggiori informazioni sulla mappa visibile sul sito di Radio 24. Noi ci risentiamo tra mezz'ora. Melog. Cronache meridiane. Io sono una vecchia signora, vorrei parlare a proposito di giocattoli, di un giocattolo che usava ai miei tempi, un macinino cinese che emetteva dei suoni affascinanti. Non so se esistano ancora perché i giocattoli cinesi attuali hanno dei suoni sgradevoli. La differenza sta che una volta era un carillon che suonava, adesso sono dei congegnini piccoli elettronici da poco prezzo, fanno sempre lo stesso suono. Qual è il giocattolo cinese oggi che non entra nelle nostre case? Figuriamoci, i cinesi sono i più grandi fornitori di giocattoli a buon mercato. Non so cosa sopravviverà dei giocattoli cinesi che oggi si comprano e si mettono sotto l'albero tanto per fare mucchio. Non so se hanno una vita e una possibilità di perdurare nel tempo come erano i giocattoli che stanno elencando i nostri ascoltatori. Irina, buongiorno. Buongiorno. L'ascolto, Irina, che sta un parco giochi? Sto prendendo i bambini dalla scuola che stanno per uscire dalla scuola. Allora, oggi è l'ultimo giorno. Velocemente, sì, elenchi il suo velocemente ricordo. Gli racconto della mia infanzia nei tempi di perestroica in Russia, che praticamente all'aperto uno dei giochi divertenti, erano anche divertenti un po' che facevano paura, è mettere gli oggetti piccoli, tipo chiodi, tappi delle bottiglie, sotto i treni. Ma la cosa l'ho per fatto schiacciarli. Anch'io. Una moneta diventava praticamente un piattino, era bellissimo. Sì, una medaglia, e poi se il treno passava troppo veloce non andava bene perché l'oggetto poteva essere perso, allora nascondendoci andavamo vicino alla stazione per aspettare il treno che passasse in modo molto accurato sull'oggetto per riuscire anche a recuperarlo. Oddio, era un gioco pericoloso perché se andava fino proprio alla rotaia a vedere cosa succedeva. Certamente, ma avremmo avuto sotto 8 anni, 10 anni massimo. Però era bella, la moneta schiacciata dal treno diventava una cosa fantastica, era bellissimo e mi fa piacere. Claudia, buongiorno, grazie Irina. Claudia. Buongiorno, auguri e grazie perché è da 45 minuti che lei mi sta regalando un sorriso che non si stacca dal mio viso. Di solito, guardi, faccio piangere e incuto tristezza, sono contento. Invece vede, allora, lei l'ha nominato, ero una bambina femminuccia un po' atipica perché avevo la pista, anch'io, e la Barbie, il Big Jim, ma ciò che mi è rimasto è l'Allegro Chirurgo, originale, con cui gioco con mia figlia. Ah, è bellissimo. Bellissimo. Con tutti i pezzi, con tutti i pezzi. Con tutti i pezzi tranne l'elastico. L'elastico è difficile, con l'elastichino piccolo giallo non si trovano più quegli elastici. Bravissimo, bravissimo. Allora, quello comunque siamo riusciti a ripristinarlo. E poi la Teresina, una bambola che oggi incute timore perché c'ha un occhio un po' sifuro e basculante, però un anno, io sono nata in Sardegna ma vivo a Milano. E la bambola zombie è tipica, però certe bambole diventano zombie dopo un po', cade l'occhio. Esatto. Però con mia figlia è stato un Natale bellissimo perché mia figlia all'epoca aveva 8 anni, l'abbiamo tutta svuotata perché il corpo, il busto era di gomma piuma, l'abbiamo svuotata, ripristinata la gomma piuma e adesso guai a toccargliela. Ah sì, perché era moscio. Ma Teresina ha quella rossa. Bravo, con i capelli rossissimi tendenti sull'arancione, le treccione e gli occhi verdissimi. Una specie di Pippi calze lunghe. Di solito si regalava alle bambine rosse per consolarle, che erano rosse un po' diverse dalle altre. Regalano Teresina, così dice anche Teresina come te. Le confesso che noi, essendo una famiglia di due statali, in realtà io volevo la signorina Beasley dei Tre nipotini o maggiordomo, del telefilm, sì. Tre nipotini o maggiordomo, costava troppo e mia mamma mi ha preso quella tarocca, che però era Teresina. Teresina di gomma piuma. Esatto, esatto. Sì, la gomma piuma si infradiciava subito. Enrico, buongiorno. Un classico. Buongiorno a voi, buongiorno. Un classico. Io ero veramente un disgraziato, perché mi facevo regalare il piccolo chimico da mio padre. Mio padre era ingegnere chimico e me lo regalava volentieri. Poi andavo da mio nonno, che era un ardito della prima guerra mondiale, facevamo insieme gli esplosivi. Ma con quale componente del piccolo chimico si fanno esplosivi? È in reale? Beh, no, assolutamente no. Mio padre toglieva tutto quello di pericoloso, quindi mio nonno era arrabbiatissimo. E quindi andavamo a rifornirci nitrato d'ammonio, fertilizzanti. Nitrato di potassio. Noi andavamo a comprare le pasticche. D'ammonio. Di potassio. Si andava a comprare in farmacia le pasticche per la gola di nitrato di potassio. Ma no, quella lì, si mischiavano a zolfo e facevano dei botti terribili. A zolfo e salnitro facevano dei botti terribili. Oggi non sarebbe potuto. Sì, ma era bellissimo, distruggevo. Ah, clorato di potassio, non nitrato, clorato di potassio. Ho sbagliato. Ah, sì, clorato, sì, di potassio. Esatto. Clorato di potassio. Clorato di potassio con quello, mentre con il nitrato d'ammonio si faceva l'anfo, quello che usano i palestinesi. Con un mio amico ignorante andò in farmacia, come ci hanno sgamato quando chiamavamo clorato di potassio e chiese il colorado di potassio e lo cacciarono a calci. Aiuto! So, poi facevamo le mine con le scatole delle pastiglie Valda, no? Che erano d'alluminio, sì, quelle di latta, certo, qui. Bellissime. Esatto. Era veramente una bomba a mano fatta apposta, sembrava apposta. Beh, sì. Però lui controllava la dose. Quindi il nonno ardito vi faceva fare i piccoli napitardi, che era un gioco divertente. Pierluigi. Buongiorno. Io volevo raccontare che quando ero piccolino giocavo con i miei amici ai cowboy, con le pistole, i soldatini e a sgiorla. Che era? Esempio. La sgiorla era una pietra piatta, rotonda, comunque la rotondavamo noi, mettevamo delle figurine dentro un cerchietto fatto col gesso sul pavimento e dovevamo tirarle e buttare fuori il maggior numero di figurine che era possibile. Ah, uno dei giochi con figurine, certo, sì. Esatto. Noi giocavamo a sovrapporle, a tirarle dal tavolo e sovrapporle, anche era questo uno dei giochi. Sì, perché le figurine doppioni si portano in tasca, era una merce di scambio per fare giochi non collezionabili. E poi no, cos'altro si ricorda? A muretto e si giocava anche a muretto. A muretto, quelle lì, tirare dal muretto e si sovrapponevano, chi sovrapponeva pigliava quelle delle altre. Esatto, invece con la sgiorla chi le buttava fuori dal cerchio di gesso si prendeva tutte quelle che buttava fuori. E andiamo avanti, ricordo qualche altro gioco che leggo dagli SMS, visto che diamo a tutti possibilità di il dolce forno Albert, oggi sarebbe fuori legge, sì, perché era una lampadina che si arroventava, era terribile. Nathalie, buongiorno Nathalie. Buongiorno, buongiorno a lei Nicoletti. Allora, la mia esperienza risale, io ho 45 anni, risale a più o meno quando avevo 8 anni, un gioco che ho appreso da bimbi in Sardegna, quando in uno dei viaggi che abbiamo fatto con mia nonna, lei originaria della Sardegna appunto, ci siamo trovati quest'estate appunto a giocare assieme. Il gioco si chiama Timballe ed è un gioco suddiviso in due parti in pratica. La prima parte consisteva nella caccia ai tappi di bottiglia che si potevano reperire lì nelle istituzioni. Una volta era più frequente, oggi non si trovano più quei tappi di bottiglia Corona, che era facile, una volta era molto più. Oggi sono di plastica i tappi delle bottiglie. Purtroppo sì. E quindi la prima parte del gioco. E poi che ci facevate? Una volta avevate i tappi di ferro? Esatto, c'era più appunto la gara, la ricerca del numero maggiore di tappi, poi venivano appiattiti da noi bimbi con delle pietre, sì. Dopodiché venivano disposti, una volta appiattiti appunto, lungo un muricciolo, insomma, quello che poteva reggere. E diventano il bersaglio, il pigliato a sassate. Esattamente. Una Bellini, specie... Grazie ai sardi giocavano l'appiattimento dei tappi da bottiglia e chi ha voglia di giocare avrà ampio margine per giocare sotto l'albero di Natale fra qualche giorno, ma da soli.